Virginia Woolf non è una scrittrice di storie. Chi in un libro cerca una storia avvincente non la troverà qui. Virginia è una scrittrice di suggestioni, di pensieri e del loro rincorrersi per associazioni di idee che lei descrive usando le parole come una pittrice impressionista userebbe la tavolozza. La Woolf sostenne che la storia è volgare e che nella realtà non ci sono storie che proseguono dritte dall'inizio alla fine. Invece ci sono ricordi, emozioni, speranze, proiezioni che si susseguono senza sosta nella mente della protagonista e che suggeriscono la storia solo come un effetto collaterale. La vicenda si intuisce attraverso l'analisi scandagliata delle emozioni e dei pensieri di chi la sta vivendo e naturalmente senza una lineare progressione temporale, poiché a momenti attuali si associano ricordi o proiezioni future, proprio come avviene nella nostra mente quotidianamente. Virginia Woolf nacque nel 1882 da una famiglia conservatrice londinese dell'alta borghesia. Nonostante la sua nascita, ebbe contatti con donne di ogni estrazione sociale e pensò liberamente, anche grazie all'opera delle suffragette che accompagnò gli anni della sua presa di coscienza. Ebbe l'intuizione di un nuovo modo di scrivere, più sensibile, femminile. A 36 anni scrisse in un articolo: "Esaminiamo per un momento una mente comune in un giorno comune. Essa riceve una miriade di impressioni che le provengono da tutte le parti. È come una pioggia incessante di atomi. Registriamo la pioggia impressionistica degli atomi così come cadono sulla mente e nell'ordine in cui cadono, per quanto sconnesso e incoerente." Questa è la sua scrittura. Lei disegnava con la penna la traccia che ogni immagine emersa dalla mente lasciava sulla coscienza. Verso i 41 anni Virginia raggiunse l'apice della ribellione contro il modo di scrivere romanzi tradizionale stabilito dalla cultura maschile. Si era fatta strada in lei la consapevolezza che la scrittura femminile è diversa, è poetica, lirica e trae materiale dal collegamento con dimensioni invisibili che a momenti la folgorano e le rivelano l'esistenza di una trama sottile, disincarnata, che muove il mondo. Lei lo chiamava il disegno nascosto. Virginia fu cosciente del suo valore e orgogliosa della rivoluzione stilistica che da lei ebbe origine. La scrittura del qui e ora, che abbandonava ogni sfida e ogni concorrenzialità con i modelli letterari maschili e inaugurava il punto di vista femminile. Virginia Woolf fu anche militante per i diritti delle donne. Ogni famiglia vittoriana, scrive, ha nell'armadio lo scheletro di una zia che è stata mandata a convertire gli indigeni, visto che suo padre sarebbe morto piuttosto che lasciarle guardare un modello nudo. E così è diventata missionaria. E così è andata in Cina, e così è morta nubile, e così rotolano fuori dall'armadio, insieme alle sue ossa, una mezza dozzina di nature morte floreali, dipinte all'ombra di un ombrellone bianco, in un giardino del Surrey, quando la regina Vittoria era sul trono. Questo scriveva a commento sulla mostra dei dipinti della sorella Vanessa Bell. Un argomento molto serio che stava a cuore alla grande scrittrice britannica era la disparità dei generi, la difficoltà per la donna di entrare in un mondo professionale e soprattutto quello artistico, monopolizzato da sempre dall'uomo, destinata a subire pregiudizi, a lottare per emergere, a sfidare la società per affermare il proprio talento. Alla pittrice non era consentito frequentare le accademie, era una vergogna che entrasse nei locali, o che dipingesse en plein air, per non parlare dello studio del nudo a lei vietato. Nel suo libro Una camera tutta per sé, che raccoglie i testi di due conferenze tenute alle studentesse di Cambridge nel 1928, sostiene che per essere emancipata e indipendente, la donna ha bisogno di una camera tutta per sé, appunto, e di una piccola rendita che l'affranchi dalla schiavitù domestica ed economica patriarcale. Esortò le donne a scrivere e a studiare, trovando nella loro generale mancanza di cultura una delle cause dell'asservimento al modello patriarcale, che lei odiava di un odio antico e sofferto, nonostante il sostegno offertole dal marito, editore di tutti i suoi romanzi. Ma la sua sensibilità, così aperta e generosa, le costò molto cara. Assieme al successo venne la morte. Dopo anni di sofferenza personale causata dalla convivenza con crisi depressive e tentativi di suicidio, una mattina, credendo di stare diventando matta, uscì di casa e si buttò nel fiume con le tasche piene di sassi. Aveva 59 anni. La scuola delle donne è lieta di offrirvi la lettura di Orlando, da lei scritto a 46 anni, 5 prima della sua morte. Di nuovo un romanzo senza una vera storia, che si dipana attraverso le impressioni della protagonista in un arco di tempo di 400 anni circa, durante diverse incarnazioni, sia come donna che come uomo. Orlando ci offre la possibilità di comprendere la grande rivoluzione operata dalla Woolf sulla scrittura. Questa versione è edita da Newton Compton con la traduzione di Maura del Serra. Da Devana, buon ascolto.